come salti di soggetto, concordanze, ambiguità, uso improprio di tempi e modi del verbo, di congiunzioni. Poi ci sono anche il lessico, povero, tanto che molti ragazzi non distinguono tra apportare e asportare, tra installare e instaurare, tra transizione e transazione. In più molti fanno un continuo ricorso all'uso delle virgolette perché non si trova il termine adatto. È abbastanza inquietante, insomma, l'Invalsi dice i nostri studenti, i nostri liceali non sanno scrivere in italiano, molti, il 4% di loro solamente è eccellente dal punto di vista dell'italiano, il 4%. Vabbè, insomma, magra consolazione, che dire. Allora, votate il sondaggio sulla vicenda dell'Utri condannata a 7 anni in appello, secondo voi dovrebbe dimettersi dal Senato? Vi chiediamo questo, ne parleremo poi alle 8.30. Alle 8.17 minuti, buongiorno e ben ritrovati, eccoci ancora in diretta 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Che balla qui, cosa ma fai? Non esageriamo adesso, così no. Stavo un po' gioendo del tuo pacato, ma molto carino come sempre modo di presentarmi. Non ho voce, semplicemente. Ti vedo che c'è questa sciarpetta attorno al collo, un look sicuramente al mattino più curato del mio. Vabbè. Buongiorno. Allora, buongiorno. Non poteva mancare a Soldi e Dintorni, caro Alessandro, un appuntamento legato al mare, alle vacanze. Anticipo già fin da ora, così poi non te lo ricordo alla fine, che a Soldi e Dintorni alle 12, che a Salvadanaio alle 12 parleremo delle vacanze per chi prende delle case in affitto e daremo un po' tutte le regole per poter stipulare un contratto corretto. A Soldi e Dintorni restiamo in tema vacanze in un'estate 2010 che vede, secondo le ricerche di Confesercenti, aumentare il numero degli italiani che andranno in ferie. Saranno 39 milioni, 1,5 milioni in più rispetto all'anno scorso, però la durata della vacanza diminuirà, sarà in media 2 giorni in meno rispetto allo scorso anno. La spesa media sarà di circa 1.022 euro per famiglia contro i 946 euro dello scorso anno. Poi qualche volta rispetto anche all'osservatorio che fa queste ricerche magari i dati cambiano, però in sostanza la situazione dovrebbe essere questa quest'anno. Stamattina in particolare parliamo di quella che è sempre stata la vacanza per eccellenza delle famiglie italiane, cioè la vacanza al mare. Per questo con noi al telefono Renato Papagni, presidente di Asso Balneari. Presidente, buongiorno, bentornato a Soldi e Dintorni. Saluto. Noi annualmente in questa data, in queste date, in queste giornate ci sentiamo naturalmente. Bene. Presidente, prima di parlare di prezzi e spese, poi faremo anche il punto sulle novità che la vostra organizzazione ha messo in campo per organizzare le famiglie e per attirare le famiglie sulle spiagge. Fino ad ora, diciamolo chiaramente, il tempo è stato terribile, lo sapete tremendo, bene. Tremendo. Ecco, nonostante tutto, gli italiani riusciranno a restare affezionati alle mete balneari per quest'anno, oppure in che modo le condizioni meteorologiche avverse hanno condizionato la vostra attività? Com'è andata? Ma diciamo che ci hanno un attimino fatto perdere quel piccolo pacchetto che è un po' di maggio, inizio di giugno, però insomma non è più di un 4-5% che stiamo recuperando in grande misura. Insomma, tra l'altro nelle nostre statistiche, nelle nostre verifiche, il 68% degli italiani verrà in vacanza al mare, quindi è un trend che cresce anche rispetto agli altri anni. Eravamo al 66, 3 anni fa eravamo al 62, quindi ci fa piacere che questa cosa cresca. Meno italiani vanno in vacanza all'estero, più italiani preferiscono una buona vacanza in Italia, in particolare al mare, insomma. Certo. Tra l'altro i numeri di Confesercenti sono sicuramente esatti, noi abbiamo delle valutazioni un po' più ampie perché non teniamo conto solamente del periodo delle ferie brevi e quindi quei 39 milioni, noi siamo a circa 45 milioni, quindi insomma, c'è un 10-12% in più perché teniamo conto della forchetta più ampia, cioè da metà luglio per noi significa andare in vacanza fino a tutto il 15 settembre. Certo. E così, tra l'altro, per dirla, se le scuole aprissero ad ottobre saremmo assolutamente soddisfatti. Lo so, però questa è una proposta, diciamo, che è circolata anche per altre ragioni di risparmio, però insomma poi comporterebbe altre problematiche per le famiglie, magari questo però non è il contesto per affrontare questo tema. Certo che aiuterebbe anche voi, soprattutto in certe zone dove l'estate continua a lungo, il sud Italia, e certo è inevitabile. Allora, Presidente, quest'anno forse per la prima volta da molto tempo le associazioni dei consumatori non vi bastonano particolarmente come accade da anni ad inizio estate. Dai dati raccolti da Federconsumatori, che ogni anno elabora questo osservatorio nazionale sull'attività degli stabilimenti balneari, vediamo scendere lievemente il prezzo di cabine e abbonamenti. Un abbonamento mensile per un ombrellone, un lettino, una sdraio si spendeva, o sotto le tabelle, per esempio nel 2008 da 550 a 610 euro, oggi siamo da 550 a 620 euro. Tra 2008, 2009 e 2010 c'è stata circa una flessione del 2%, quindi state stringendo un po' la cinghia sui prezzi? La scelta che abbiamo fatto, questa l'abbiamo già fatta nei momenti delle decisioni, delle quotazioni, quindi parlo ormai di febbraio, gennaio e febbraio, anche perché dovevamo avere così cognizione del trend che non stava andando benissimo, e quindi noi abbiamo fatto una scelta di mantenere le quotazioni del 2008. Ecco perché a questo punto quest'anno siamo effettivamente ad un meno 10% di quello che effettivamente doveva essere se fossimo andati avanti con i costi del personale, con i costi delle energie e quanto altro. Quindi abbiamo fatto una scelta di campo, come si dice, una scelta molto forte. D'altronde diminuisce la domanda, anche bisogna tirarla. In termini economici scende un attimino. Io qualche giorno fa ho fatto la battuta: se alla Risbar a Venezia Cipriani fa e comunica uno sconto del 10% per la sua attività, beh, insomma, che vada bene anche per gli stabilimenti balneari. Quindi siamo assolutamente in ribasso, senza abbassare qualità, anzi forse abbiamo migliorato ulteriormente i servizi in alcune parti d'Italia. Insomma, siamo tornati con grandi numeri, grande organizzazione, le località storiche, quelle di maggiore qualità, stanno avendo un grandissimo successo. Parlo del Tiguglio, la Versilia, la Costiera Amalfitana, e in alcune realtà molto specifiche anche la Sardegna sta crescendo in maniera notevole. La Puglia ha fatto un boom di risultato quasi incredibile, il Salento quest'anno va alla grande, come si dice, insomma, fa veramente. E poi c'è il Friuli con Lignano Sabbiadoro, insomma. Le località, insomma, tedesche, storiche, sì. Certo. No, tra l'altro quello che volevo ricordare è che naturalmente anche un po' per compensare questo mantenimento dei prezzi per ombrelloni, lettini e sdraie, gli stabilimenti balneari so che hanno messo in campo tante altre iniziative, tanti altri servizi, poi se avremo modo magari le racconteremo, Presidente. Quello che volevo dire però è che a fronte di prezzi contenuti per ombrelloni e lettini, non è che poi i consumatori risparmino tanto quest'anno, perché Federconsumatori ha analizzato anche altre voci di spesa per chi va in vacanza sulla spiaggia. C'è per esempio il pieno di benzina, che rispetto allo scorso anno è aumentato di quasi l'8%. Da domani aumentano le tariffe autostradali, quindi adesso magari per chi contesta il fatto che non saranno poi vacanze all'insegna del risparmio per molte famiglie, è ovvio, perché ci sono anche altre voci da prendere in considerazione. E però, tornando appunto alle novità che troveremo sulle spiagge, Presidente, ho trovato per esempio che molti stabilimenti metteranno a disposizione lettini super accessoriati, la possibilità di collegarsi con internet, soprattutto per i giovani che non riescono a staccarsi dai social network, e quindi insomma avete un po' voluto ampliare. Abbiamo sicuramente grandi novità, tra l'altro queste novità fanno una grande attrazione per tutta quella fascia di italiani, ma anche di stranieri, che normalmente non vengono nelle nostre spiagge. Le nostre spiagge sono sostanzialmente spiagge per famiglie, quindi non certamente spiagge con appeal per i giovani. Invece quello che sta succedendo, e ci piace anche raccontarlo, in particolare dicevo in Puglia, ma insomma la Rimini, Riccione sono state anche quest'anno un grande boom, un grande risultato. Devo chiederle di essere sintetico, Presidente, perché stiamo chiudendo. Cosa è successo? Sì. E quindi questi accessori straordinari, i lettini che girano con il girasole, il caricabatterie inserito dentro l'asta dell'ombrellone, perché da lì con un pannellino solare sopra all'ombrellone ricarichiamo il telefonino, oppure tutto il sistema wireless che ormai abbiamo sull'80% delle nostre spiagge, insomma, ci dà sicuramente qualche novità che fa piacere ai nostri clienti. Ma non è che ci fanno vanificare tutto il risparmio che possiamo avere dallo spendere meno per l'ombrellone e il lettino, Presidente? No, assolutamente. Tra l'altro anche i consumi che sono scesi un attimino, quindi bar, ristorante, tutti gli accessori. Ecco, esatto, perché c'è il solito problema sotto assoluto controllo. Il solito problema della bottiglietta d'acqua che costa 3 euro. No, assolutamente no, saremmo suicidi se facessimo qui. Presidente, chiudo dicendole una cosa. Sì, rapidissimo perché devo dare la linea del santo. È cambiato il mondo della notte sulle spiagge, ormai le spiagge sono frequentatissime di notte, non va più di moda, non è più appeal la discoteca quella classica, ma si cena, si fa happy hour, si cena. Esatto, perché costa molto meno. Esatto. Presidente, devo salutarla, grazie per questo suggerimento, è tardissimo. Alessandro, prossima. Alessandro, grazie, hai sentito quante opportunità hai per le tue notti estive? Tutti al mare. Benissimo. Grazie, ovviamente. Ciao, affitti, alle 12. Affitti e case per le vacanze, l'ho già detto all'inizio. Certo. Buona giornata. Buona giornata anche a te. Noi parliamo della condanna in appello a Marcello Dell'Utri, 7 anni per associazione esterna alla mafia. Dovrebbe dimettersi, secondo voi, dal Senato, da senatore? Questo è il tema del nostro sondaggio. Alle 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo della condanna a 7 anni in appello al senatore Marcello Dell'Utri nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? La domanda che vi poniamo su Radio24.it è molto netta. Secondo voi il senatore Dell'Utri dovrebbe dimettersi dal Senato? Devo dire che molti state votando, l'87% per ora dice di sì. Dovete votare su Radio24.it. Se volete intervenire invece 800 24 00 24, per i vostri messaggi il 349 238 6666. Devo dire che oggi il senatore Dell'Utri, nell'intervista concessa a Paolo Colonnello della Stampa, parla anche di questo. Alla domanda: pensa sia conciliabile il suo ruolo di senatore con una condanna per mafia? Risponde: assolutamente sì. Finché non c'è sentenza definitiva, la Costituzione dice che l'imputato si deve ritenere innocente. Il mio è un percorso che finirà l'anno prossimo e fino ad allora io sono innocente in attesa di giudizio. Voglio salutare Rita Borsellino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Rita Borsellino, europarlamentare e tra l'altro anche sorella di Paolo Borsellino. Saluto anche l'onorevole Roberto Centaro. Buongiorno. Buongiorno. Di Forza Italia, o meglio del Popolo della Libertà. Voglio ricordare anche che è stato presidente della Commissione Antimafia, è un magistrato. Onorevole Borsellino, inizierei da lei. C'è chi dice, intanto secondo lei dovrebbe dimettersi Dell'Utri? Secondo me sì, ma io non lo dico in base a una giudizio molto netto che propose una volta mio fratello. Valadino. Nel senso di un uomo politico che ha delle responsabilità anche grandi, come quello di essere appunto senatore della Repubblica, al di là del fatto che la Costituzione gli garantisce proprio di essere innocente fino a condanna definitiva, per ragioni proprio di opportunità politica dovrebbe dimettersi. Dopo una condanna del genere. Senta, lei ha visto, effettivamente la cosa che più fa discutere è questa: come è possibile una condanna a 7 anni per reati però fino al 92, poi dal 92 invece la soluzione perché il fatto non sussiste? Tra l'altro è il periodo delle cosiddette stragi mafiose, della presunta trattativa Stato e politica. Che può fare? Libero titola oggi, era mafioso part time? Cioè che vuol dire? Abbiamo già un'esperienza in questo senso, perché una condanna simile l'abbiamo vista nel processo Andreotti, che fino a un certo punto viene condannato, condanna poi reato poi prescritto peraltro, perché i tempi erano ancora anteriori, e poi da un certo punto in poi c'è la redenzione. La redenzione addirittura. Cioè, sì. Io la definisco così, mi scusi, uno che fino a un certo punto è mafioso e improvvisamente non lo è più, o lo chiamiamo pentito, ma non mi sembra che sia un termine molto adatto in questo caso, oppure diciamo che si è redento appunto sulla via di Damasco. Qualcuno però dice questo, almeno poi bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, certo, ma rende tutto abbastanza, cioè meno credibile, nel senso lo stesso Dell'Utri in questa intervista ha detto: mi dà l'idea che non abbiano avuto il coraggio né di condannarmi totalmente né di assolvermi, cioè l'idea di essere... Una brutta abitudine che è quella di commentare le sentenze. Io, lei mi ha chiesto un commento, gliel'ho fatto, ma come vede in termini piuttosto secchi, diciamo così. Le sentenze, come anche i processi, non si dovrebbero commentare, lo dico anche, mi appello anche all'onorevole Centaro, che essendo stato magistrato sicuramente di questo sa più di me, i magistrati hanno tale, analizzano tale una mole di documenti, di prove o di non prove, di indizi, di tutto il genere. Poi noi su quattro notizie giornalistiche ci arroghiamo il diritto di dare un giudizio netto. Io credo che le sentenze intanto vadano rispettate. Certo, si possono anche discutere, su questo non ci sono dubbi e le discutiamo, anche per cercare di capire, però le sentenze vanno rispettate. Intanto aspettiamo appunto le motivazioni che ci spiegheranno qualcosa, poi succederà come con Andreotti, ripeto, oppure come è successo con Cuffaro, è un po' la stessa cosa. Ecco, onorevole Centaro, io le voglio chiedere proprio questo, che ne pensa del fatto che Dell'Utri dica io fino a prova contraria, cioè fino alla Cassazione, sono in attesa di giudizio? Ci ha appena detto Rita Borsellino, come diceva suo fratello Paolo Borsellino, di fronte a certe condanne, anche se si vuole in appello, la responsabilità di un uomo di potere, un uomo politico, è quello di fare un passo indietro. Lei è d'accordo? Ma io penso che la presunzione di innocenza debba valere per tutti, anche per un uomo politico, evidentemente. Poi naturalmente rimane nel foro interno di ciascuno di noi la decisione di dimettersi o meno e tutto ciò che ne consegue. Il foro interno, cioè, che vuol dire? Dovrebbe essere una decisione che prende in autonomia? Ma non ci può essere una regola con una, diciamo, condanna morale se non si applica questa regola. L'unica regola che c'è è quella della presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva. Se poi ci si può anche dimettere nel corso delle indagini preliminari, ma naturalmente, come dicevo poco fa, rimane tutto al foro interno di ciascuno di noi, oppure si vuole portare fino in fondo quella che può essere una battaglia per la propria innocenza proprio sulla base di una presunzione che è codificata dalla Costituzione. Senta, qualcuno fa notare oggi che appunto il fatto che sia stato assolto per i fatti dal 92 a poi, quello che Rita Borsellino dice, evidentemente c'è stata la redenzione, abbia fatto gioire in qualche modo molti esponenti del Popolo della Libertà a dire cade quella teoria di Forza Italia, anche nata perché con appoggi tramite Dell'Utri della mafia. E qualcuno fa notare, ma come stona un po' il fatto di non so se esultare o comunque prendere positivamente una sentenza che comunque parte da una sentenza di condanna a 7 anni. Ma intanto devo dire, una sentenza che non giudico più di tanto, tra l'altro mi piacerebbe quando sarà il momento leggerne le motivazioni, anche per capire questa differenza nella valutazione dei periodi sulla base delle che possono essere anche le valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su eventuali riscontri esterni, se ci siano stati o meno. Non ho idea, e per questo mi riservo di valutare sulla base delle motivazioni quando verranno depositate. Certo, mi meraviglia, così come mi meravigliò al momento della sentenza Andreotti, questa cettura prima sì, poi no. Sì. Naturalmente pensate poi a tutta la costruzione realizzata sulla base di alcune tesi precostituite, che Forza Italia sia nata grazie alla mafia, abbia conquistato il successo elettorale in Italia grazie alla mafia, beh, significa poi stare dietro a teorie deliranti, perché significherebbe dire che il popolo italiano ha, nella sua maggioranza, ha premiato un partito in quanto condizionato esso popolo italiano dalla mafia. Beh, insomma, siamo proprio alla follia. Devo dire anche un'altra cosa. Sì. Quando Forza Italia nasce verso la fine del 93 e poi si presenta alle elezioni del 94, nessuno scommetteva una lira sulla sua capacità di vincere, e la sua capacità di vincere deriva dall'assoluta innovazione, dalla novità, dalla circostanza che era un soggetto moderato a cui questa maggioranza silenziosa, che poi aveva premiato la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, si poteva rivolgere. All'epoca la giusta macchina da guerra di Achille Occhetto era data per vincente assolutamente assolutamente da tutti. Sì. Allora, la mafia non scommette mai e non gioca mai al buio, gioca sempre con chi detiene le leve del potere o con chi ha probabilità, direi certezza, di conquistarlo, di vincere. Ecco quindi che, insomma, poi naturalmente la fantapolitica può costruire di tutto, ma... No, ma lei, lei che nel punto non crede assolutamente a questa teoria. Io voglio salutare anche, ci sta ascoltando, Mauro Lamantia, buongiorno. Buongiorno. Mauro Lamantia è presidente regionale di Giovane Italia Sicilia, questa è la denominazione esatta, Lamantia. Sì, sì. Eccoci. Allora, io voglio far ascoltare a lei, come a onorevole Centaro, onorevole Rita Borsellino, un punto che ha fatto molto discutere. Vale a dire la definizione, e ci ritorna poi dell'Utri nell'intervista che oggi ha rilasciato sia la stampa che al giornale, su Vittorio Mangano, lo stagliere condannato per mafia e giudicato da dell'Utri il mio eroe. Dico il mio eroe perché la distinzione che dell'Utri ne fa è importante. Sentiamo ancora dell'Utri su Vittorio Mangano. Per me è un eroe, perché è morto mentre poteva restare tranquillamente a casa accusando Berlusconi e dell'Utri di cose inesistenti. Lo avrebbero lasciato immediatamente dal carcere, come hanno fatto con tanti pentiti, e mandato a casa, riverito e servito. Lui non l'ha fatto, quindi per me è stato un eroe. Per me è un eroe. Lamantia, lei si è molto adombrato, creando anche, qualcuno dice, un caso politico, perché lei fa parte, insomma, del Popolo della Libertà, come Giovane Italia. Si è adombrato perché su questa definizione? Ma perché qualora fosse vera, diciamo, la tesi di dell'Utri sull'atteggiamento di Vittorio Mangano tenuto in carcere, questo non cancella la vita di Vittorio Mangano, che, diciamo, non lo dico io, non lo dice qualche politico, ma lo dicono, insomma, le sentenze dei tribunali. È stato un mafioso, è stato un criminale, e qualsiasi atto in vita positivo di un mafioso, questo, ripeto, non può cancellare la storia personale di questi uomini. Il segnale, un politico che è un uomo pubblico, dire pubblicamente, ecco, che una persona come Vittorio Mangano è un eroe, anche seppur personale, sono parole secondo me inopportune, soprattutto detto da un siciliano. Perché oggi Ciancimino, il figlio di Vito Ciancimino, dice in un'intervista, dire il giorno della condanna che Mangano è un eroe è un segnale agli uomini di Cosa Nostra in carcere, come dire: siete dei martiri, state tranquilli. Lei addirittura potrebbe interpretarla così. Perché dice, per un siciliano soprattutto, è sbagliato? Perché un siciliano capisce bene che, ripeto, soprattutto un politico siciliano, deve dare dei segnali alla società, alle giovani generazioni. Non è soltanto un segnale, come dice Ciancimino, ai boss in carcere, è un segnale all'intera società siciliana, che è riuscita dopo tanti anni a creare nelle città, nei quartieri, miti positivi quali Falcone e Borsellino. Ecco perché stona ecco questa dichiarazione, che non è la prima volta che la sentiamo su Vittorio Mangano. No, tra l'altro non è la prima volta, e vorrei su questo, Rita Borsellino, perché dell'Utri in questa intervista oggi dice: ancora con questa storia, ma la si vuole capire, Mangano è il mio eroe, lo dirò fino alla fine dei miei giorni, si è comportato con me stoicamente, di lui si può parlare quanto si vuole, quando l'ho conosciuto io ero una persona avulsa dall'ambiente mafioso, poi, come dice Dante, che colpa ho io della sua vita rea? Lei, Rita Borsellino, se dovessi dare un titolo un po' letterario, direi che questo è l'elogio dell'omertà. Io credo che non si possano dire cose di questo genere, cioè dell'Utri, se lo ritiene, se pensa proprio così, lo tenga per sé, non lancia un segnale. Mi trovo perfettamente d'accordo, da siciliana mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha detto Lamantia, assolutamente, è chiaro che anche al di là forse delle sue intenzioni, ma dell'Utri è una persona intelligente ed è un siciliano, al di là, quindi non credo, al di là delle sue intenzioni, questo è veramente un segnale che si lancia. Allora definiamo un eroe anche Graviano, che non ha confermato le parole di Spatuzza e quindi ha salvato dell'Utri proprio per la seconda parte, diciamo così, di questa sua vita dal 92 in poi. Non ci sono i riscontri a quello che Spatuzza dice, perché Graviano, non essendo un pentito, naturalmente non lo dice, non lo fa, e allora a questo punto, ripeto, facciamo l'elogio dell'omertà. Però questa distinzione, cioè, pur sapendo, pur essendo in una certa condizione, a casa mia, cioè in Sicilia, si chiama omertoso. Questo è un elogio dell'omertà. Le chiedo, però, se dice che il suo eroe lo tenga per sé, sa cosa aggiunge? Dice: è ovvio ed è persino offensivo pensare che io non lo creda che Falcone e Borsellino siano due eroi. Ma lui è incompatibile, posso dire questo: è assolutamente incompatibile. O è eroe Mangano, o è eroe Falcone, Borsellino, i tanti che ogni giorno silenziosamente lavorano e operano nella propria vita, nelle proprie scelte personali, anche sacrificandosi o anche facendo delle scelte difficili, fanno l'eroismo della vita di tutti i giorni. Mi dispiace, sono assolutamente incompatibili e io non credo che Dell'Utri sia in buona fede quando dice questo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, prima di andare dal senatore Centaro, un paio di ascoltatori. Paolo da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Avrei una domanda da porre, perdonatemi, un problema di linea, sento male. Sì, dica. La domanda, il contributo mio è in questi termini. Premesso che mi trovo perfettamente d'accordo con Borsellino quando dice un uomo politico, diciamo, che dovrebbe dimettersi in certe situazioni, la mia domanda è: perché il senatore Giulio Andreotti, che è stato riconosciuto colpevole di associazione, di partecipazione in associazione mafiosa, e non punito, mandato assolto per prescrizione, perché il senatore Andreotti siede in Parlamento? Cioè, lei dovrebbe valere la stessa cosa. Beh, poi si può discutere, qua c'è anche un magistrato, ma la prescrizione non è come una condanna a 7 anni, no? Su questo siamo d'accordo, Paolo? Cioè, certo, Dell'Utri è stato condannato. Come cittadino mi pongo un problema. Sì. Non conoscendo il senatore Andreotti, e gli viene appiccicata un'etichetta di lei è stato associato a, e non era esattamente né una bocciofila né un oratorio, sì, ma di fatto trattava con dei mafiosi. No, ma la vicenda, guardi, adesso si sta parlando di Dell'Utri, ma lo stesso problema si è posto anche, per esempio, quando è stato condannato in appello il senatore Cuffaro, che siede anche lui in Parlamento. Il problema ovviamente può essere esteso per altre persone qualora si trovassero nella situazione similare, chiaramente. Lei comunque dice: se c'è Andreotti non vedo perché ci debba essere Dell'Utri, o se si dimette Dell'Utri anche Andreotti. Grazie. Paolo, voglio andare a Riccardo da Milano, buongiorno. Buongiorno a Milano. Io volevo dire molto semplicemente che, diciamo, determinati parlamentari associati a determinate reati tipo mafia e ancora peggio sarebbe terrorismo, chiaramente dovrebbero dimettersi anche temporaneamente fino alla sentenza definitiva. Cioè, insomma, addirittura lei dice in che grado di giudizio? Nel momento in cui uno è già indagato per mafia? Ma diciamo che già ha subito una condanna, che già comunque sia, questa è la seconda, insomma, che subisce Dell'Utri, quindi voglio dire, dovrebbe mettersi un attimo da una parte, insomma, voglio dire, attendendo la sentenza definitiva, perché va chiaramente bene, la presunzione di innocenza c'è, quindi voglio dire, però dovrebbe allontanarsi. Cioè, la presunzione di innocenza viene salvata, però le dice attenda la sentenza definitiva mettendosi da parte, anche se poi uno pone il problema: se poi viene assolto, chi gli ridà il seggio al Senato, per dire, ragionando sempre ipoteticamente. Senatore Centaro, la imbarazza questo accostamento, questa definizione di mio eroe da parte di Dell'Utri nei confronti di Mangano? Ma devo dire che Mangano non è un eroe, ma è un mafioso, punto. Poi naturalmente ciascuno di noi può, diciamo, definire come meglio crede le persone, gli si può riconoscere se è successo che abbia resistito a lusinghe di forza dell'ordine di magistrati, a questo punto, perché rivelasse chissà che cosa o che altro, e così migliorasse la sua situazione. Se è vero, non è vero, non lo sappiamo neppure, però prima di usare certe definizioni, io ancor più in dichiarazioni pubbliche, io ci penserei mille volte. Le definizioni pesano e e possono essere attribuite solo a chi le merita e basta. Senta, c'è tutta la vicenda dal 92 in poi, quella della trattativa Stato e mafia, presunta trattativa Stato e mafia. Ora bisogna attendere le motivazioni della sentenza, ma e vorrei chiedere, partire da Rita Borsellino anche qui, che dobbiamo dire allora? Cioè, è crollata tutta quell'ipotesi di un'idea di trattativa Stato e mafia per la quale ci furono gli attentati, le stragi nella quale perse la vita anche suo fratello? Ma non è crollato assolutamente nulla, qui si tratta soltanto su questa sentenza di cui appunto dobbiamo leggere le motivazioni, viene scagionato, almeno per adesso, viene scagionato il senatore Dell'Utri. Questo non significa che le trattative mica le conduceva soltanto Dell'Utri, in ogni caso nessuno aveva detto questo. Le trattative, ci sono tracce importanti di queste trattative, si stanno analizzando anche in altri processi, lì c'è stata, ripeto, la chiamata in causa di questo collaboratore di giustizia di Spatuzza, il quale ha fatto delle dichiarazioni su Dell'Utri. Le dichiarazioni non sono state comprovate da una dichiarazione di Graziano, che era il mafioso di suo riferimento, e quindi le parole però, di Spatuzza non sono state assunte. E questo come però prova. È un problema, cioè siccome Spatuzza ha ricostruito anche attribuendosi una sua responsabilità nella vicenda, proprio nella strage di Via D'Amelio, il suo fratello, cioè se questo, sempre ragionando per assurdo e vedremo le motivazioni, non sono ritenute credibili, perché dovremmo ritenere credibili altre versioni di altre persone? Assolutamente, qui si chiedeva il riscontro di Graviano, cioè impostiamo un momento questa situazione, il riscontro alle parole di Spatuzza è stato chiesto in aula a Graviano. Graviano è un mafioso, è come Riina, è uno che non parla. E allora perché un altro mafioso, un mafioso parla, un mafioso non parla, e allora basta, non si può più indagare, non c'è altro riscontro. Era strano che Graviano, sarebbe stato strano se Graviano avesse avvallato quello che diceva Spatuzza, significava un inizio di collaborazione da parte di Graviano, che ben venga, ma non c'è stato. Quindi assolutamente tutto il resto resta in piedi. Ci sono quattro procure che stanno interrogando Spatuzza e che hanno ritenuto, provandole con delle prove, anche con dei riscontri oggettivi, quello che Spatuzza dice. Quindi questo è un particolare. Graviano non ha riconosciuto in quello che Spatuzza diceva del suo incontro al bar, quello che gli avrebbe detto, eccetera, quindi questa parte non può essere ritenuta una prova. Senatore Centaro, io vorrei concludere con lei, perché su questo anche Dell'Utri dice: certo che c'è un livello di trattativa, qualcosa è successo, ma evidentemente i magistrati cerchino piste vere invece di perdere tempo con minchiate, quelle che definisce su di lui. Lei che ne pensa da questo punto di vista? Cioè riscrivere... Ma io penso che bisogna fare luce senza sconti per nessuno su questa tragica vicenda del 92 e del 93. Io alla trattativa con lo Stato, o perlomeno da parte di pezzi dello Stato con la mafia, non credo più di tanto, sarebbe di una gravità, sconvolgerebbe tutto. E non posso crederci, posso credere ad un'altra cosa, che in quel momento lo Stato chiede ai propri uomini di cercare e cercare dovunque, di agganciare chiunque, di trovare ad ogni costo i responsabili. In questa vicenda si inserisce chi vuole trarre profitto da questa ricerca da parte degli uomini dello Stato, per questo chi vuole trovare profitto ovviamente la mafia, attraverso una serie di concessioni, di condizionamenti che si ritiene di poter ottenere. Poi in realtà tutto questo non è stato ottenuto, perché proprio l'elencazione contenuta nel cosiddetto papello, ammesso che sia un qualcosa di esistente o di esistito, evidentemente poi è stata contrastata da ciò che è stato legiferato al 41 bis, sequestro e confisca dei beni mafiosi, fortissima reazione dello Stato e tutto il resto. Naturalmente tutto questo bisogna portarlo avanti, perché che vi possano essere stati degli interessi convergenti con quelli della mafia nelle stragi del 92 e del 93, non stento a crederlo. Bisognerà però capire esattamente qual è il livello e quali sono questi interessi convergenti. Potrebbero essere, si è parlato tanto di inchieste sugli appalti, su una serie di quindi motivazioni di carattere economico, a cui la mafia evidentemente è sempre particolarmente sensibile. Insomma, sì, è una parte di storia tutta da scrivere, chiaro. È una pagina di storia che va scritta. Mi devo fermare però di scriverla con tesi precostituite. Mi devo fermare qui però, senatore. Cercare il riscontro di queste tesi. Mi devo fermare perché il tempo è scaduto. Grazie a tutti davvero per essere intervenuti, così come Alessandro Marco Tulli in redazione e Filippo Aureggi in regia. Do la linea Oscar Giannino come di consueto. Noi ci troviamo qua alle 7:30 domani mattina.